Bibbia Martini, primo libro dei Re 11 Salomone sposa molte donne straniere, e da queste sedotto, agì alle idoli di esse si rivolge. Il Signore sdegnato contro di lui gli muove contro Adda, Razzon, e Geroboam, al quale pel profeta Ia promette il regno di Israele, serbando una sola tribù al figliuolo di Salomone. Morte di Salomone dopo 40 anni di regno, a cui succede il figliuolo Roboamo. Ma il re Salomone amò grandemente molte donne straniere, e anche la figliuola di Faraone, e delle donne di Mob, e di Ammon, e dell'Idumea, e di Sidone, e del paese di Et, nazioni, delle quali avea detto il Signore a figliuoli di Israele, voi non prenderete delle loro donne, e non darete loro delle vostre, però che infallibilmente elle non pervertiranno i vostri cuori, per farvi seguire i loro dei. A tali donne adunque si unì Salomone con ardentissimo affetto. Ed ebbe 700 mogli quasi regine, e 300 concubine, e queste, donne gli pervertirono il cuore. Ed essendo egli già vecchio, fu per opera delle donne depravato il cuore di lui sino a farlo andar dietro a dei stranieri? E il cuore di lui non fu sincero col Signore Dio suo, come fu il cuore di Davide suo padre. Ma Salomone rendea culto ad Astarte dea dei Sidonj, e a Moloch idolo degli Ammoniti. E fece Salomone quello, che non piaceva al Signore, e non perseverò in seguire il Signore, come fece Davide suo padre. Allora fu, che Salomone eresse un adoratorio a Camos, idolo di Mob, sul monte, che sta di rimpetto a Gerusalemme, e a Moloch, idolo dei figliuoli di Ammon. E la stessa cosa fece per tutte le sue mogli straniere, le quali bruciavano incensi, e sacrificavano agli dei loro. Il Signore pertanto si sdegnò contro Salomone, perché l'animo di lui si era alienato dal Signore Dio di Israele, il quale era gli apparito per due volte, e lo aveva ammonito intorno a questo di non andar dietro agli dei stranieri, ma egli non osservò il comando del Signore. Disse adunque a Salomone il Signore, perché tale è in te, e non hai mantenuto il mio patto, e gli ordini, che io ti ho dati, io squarcerò, e spezzerò il tuo regno, e darollo ad un tuo servo. Ma non farò io vivente te, per amor di Davide tuo padre, io lo spezzerò tra le mani del tuo figliuolo, e non torrò a lui tutto il regno, ma una tribù darò al tuo figliuolo, per amor di Davide mio servo, e di Gerusalemme eletta da me. Ora il Signore suscitò un nemico a Salomone, ad Adidumeo della stirpe reale, che era nell'Idumea. Impero che essendo Davide nell'Idumea, ed essendo andato Joab capitano delle genti da guerra a dar sepoltura a quelli che erano rimasti uccisi, e ad uccidere tutti i maschi dell'Idumea, lo stesso Adad se ne fuggì accompagnato da altri idumei servi del padre suo, per andare in Egitto, e Adad era di poca età. E questi partitisi da Madian, giunsero a Faran, e preser seco gente di Faran, ed entrati in Egitto si presentarono a Faraone re dell'Egitto, il quale diede a lui casa, e vitto, e gli assegnò dei terreni. E Adad si ingrazianì talmente con Faraone, che questi gli diede per moglie una sorella germana della regina Tafnes sua moglie. E dalla sorella di Tufnes ebbe egli il figliuolo Genubat, il quale da Tafnes fu allevato nella casa di Faraone. Onde Genubat abitava in casa di Faraone con figliuoli del re. Ora avendo Adad sentito in Egitto, come Davide si era addormentato con padri suoi, e che Joab capitano delle milizie era morto, disse a Faraone, dammi licenza, ch'io men vada al mio paese. E Faraone gli disse, che ti manca in mia casa, onde tu abbi da cercare di andartene al tuo paese? E quegli rispose, niente, ma ti prego di darmi licenza. Suscitò ancora Dio a lui un altro nemico, Azzon figliuolo di Eliada, il quale avea abbandonato Adarez il re di Soba suo signore. Ed egli adunò gente contro di lui, e diventò capitano di ladroni, ai quali Davide faceva aspra guerra, ed egli no se ne candarono a Damasco, e ivi abitarono, e a Razzon diedero il regno di Damasco. Ed egli fu nemico di Israele per tutto il tempo di Salomone, E questo oltre il flagello di Adad, e l'odio di lui contro Israele, egli regnò nella Siria. Parimente Geroboam figliuolo di Nabat, e frateo di Sareda, servo di Salomone, di cui la madre vedova chiamava Sisarva, si ribellò contro il re. E la causa per cui si ribellò contro di lui, ella è questa, perché Salomone edificò Mello, e colmò la voragine della città di Davide suo padre. Or Geroboam era uomo valoroso, e possente, e Salomone veggendolo giovane di buona indole, e attivo, gli avea data la soprintendenza dei tributi di tutta la casa di Giuseppe. Or in quel tempo egli avvenne, che uscendo Geroboam da Gerusalemme, si imbatté per istrada Inaia di Silo, profeta, il quale era coperto di un mantello nuovo, ed erano loro due soli nella campagna. E Aia preso il suo mantello nuovo, che aveva addosso, lo spezzò in 12 parti. E disse a Geroboam, prendi per te 10 pezzi, perché così dice il Signore Dio d'Israele, ecco, che io spezzerò tra le mani di Salomone il regno, e daronne a te 10 tribù. Ma una tribù resterà a lui per amor di Davide mio servo, e la città di Gerusalemme è eletta da me fra tutte le tribù d'Israele, perché egli mi ha abbandonato, e ha renduto culto ad Astarte dea de Sidonj, e a Camus dio di Mob, e a Moloch dio dei figliuoli di Ammon? E non ha camminato nelle mie vie, per adempire quello che è giusto dinanzi a me, e i miei comandamenti, e le mie leggi, come Davide suo padre. Ma nulla parte del regno terrò dalle mani di lui, e ma farò che egli il governi per tutto il tempo di sua vita, per amor di Davide mio servo eletto da me, il quale osservò i miei comandamenti, e le mie leggi. Ma terrò il regno dalle mani del suo figliuolo, e a te darò 10 tribù, e al figliuolo di lui darò una tribù, affinché resti pel mio servo Davide un piccol lume in perpetuo dinanzi a me in Gerusalemme, città eletta da me, perché ivi si onorasse il nome mio. E io prenderò te, e regnerai sopra tutto quello che tu più ami, e sarai re sopra Israele. Se tu dunque sarai attento a tutto quello che io ti ordinerò, e camminerai nelle mie vie, e farai quello che è giusto dinanzi a me, osservando i miei comandamenti e le mie leggi, come fece Davide mio servo, io sarò con te, e ti edificherò una casa permanente, come edificai la casa di Davide, e ti farò signore di Israele. E umilierò in questo la stirpe di Davide, ma non per sempre. Salomone adunque tentò di far uccidere Geroboam a Ima e gli andò a rifugiarsi in Egitto presso di Sesac re dell'Egitto, e stette in Egitto fino alla morte di Salomone. Or tutte le altre geste di Salomone, e tutto quello che egli operò, e la sua sapienza, tutto sta scritto nel libro dei giorni di Salomone. E il tempo che Salomone regnò in Gerusalemme sopra tutto Israele fu di 40 anni. E Salomone si addormentò coi padri suoi, e fu sepolto nella città di Davide suo padre, che succedette a lui nel regno Roboam suo figliuolo. Note 11,1. E anche la figliuola di Faraone. Ella è notata in particolare come quella che più d'ogni altra aliena da Dio il cuore di Salomone. 11,4. Ed essendo egli già vecchio, eci. Si crede che egli avesse più di 50 anni. Egli aveva regnato con somma pietà e con infinita gloria per circa 30 anni, ma il fine fu totalmente diverso da tali principi. 11,5. Rendeva culto ad Astarte e C.S. Agostino de Civ. 14,11. Parla così, crederemo noi, che Salomone uomo di tanta sapienza potesse giungere fino ad immaginarsi che fosse buono a qualche cosa il culto degli idoli. No certamente, ma egli non seppe resistere all'affetto verso delle sue donne, le quali lo inducevano a commettere tanto male, così per non contristare i suoi pestiferi amori, ai quali avendato il suo cuore, faceva quello che sapeva non essere da farsi. Lo Spirito Santo, il quale ci racconta l'orrenda caduta di questo principe, non ci dà davvero un sufficiente argomento a poter sperare che egli si convertisse, e ci lascia nell'incertezza riguardo alla salute di un uomo stato già tanto caro a Dio, arricchito di tanti doni celesti, pieno di sapienza, di virtù e di gloria. Impero che l'argomentare, come fanno alcuni, la sua penitenza da alcuni passi, che trovansi nell'Ecclesiaste e nel Proverbi, egli è una dura improva di un fatto incerto, una cosa non meno incerta, volendosi da molti, che l'uno e l'altro libro sia di data anteriore a suoi falli. I padri stessi, e gli autori ecclesiastici sono tra loro divisi, onde qualunque cosa possa dirsi per l'uno, o per l'altra parte, il dubbio resterà indeciso, e avrem sempre motivo di temere, che Salomone, il diletto di Dio, il di cui regno pacifico e glorioso fu figura del regno di Cristo, quel principe, di cui si servì lo Spirito Santo per arricchire la Chiesa di varie scritture sacre e canoniche, quel principe, che fu per lungo tempo l'esempio dei giusti non meno, che dei regnanti, divenuto prevaricatore sia perduto in eterno. Qual è l'uomo saggio, che sappia ponderar tali cose in cuor suo, e apprendere a temere i giudizi di Dio terribile nei suoi castighi sopra i figliuoli degli uomini, e a temere in ogni tempo la natural debolezza e miseria? 11,7 Sul monte, che sta di rimpetto e ci. Sul monte Oliveto, onde fu di poi chiamato monte di scandalo. 4. Regione 23esimo. 13. Però che l'adoratorio eretto su quel monte era in vista di tutta la città. 11,9 Era gli apparito per due volte. La prima volta in Gabaon, capitolo 3:6, la seconda in Gerusalemme. 9:2. 11,13 Una tribù darà al tuo figliuolo. La piccola tribù di Beniamin faceva come un sol corpo con quella di Giuda, con la quale era unita di abitazione. A Giuda e a Beniamin si uniron di poi i Leviti, i quali, abbandonate le loro stanze, andarono a risiedere nella tribù di Giuda, e molti israeliti anche delle altre tribù fecero lo stesso per non abbandonare il culto del vero Dio dopo lo scisma di Geroboamo. 11,14 Ora il Signore suscitò un nemico a Salomone. Dio sospende i castighi co quali volea punire gli eccessi di Salomone, fin dopo la morte di lui, e imma con tutto ciò vuole, che Salomone stesso venga teso già l'arco, per così dire, e preparati i flagelli, affinché egli abbia occasione di ravvedersi. Quando Davide soggiogati i Gl e i Dumei, mandò Joab a uccidere tutti i maschi di quel paese. Adad principe della stirpe reale di quel paese, si salvò in Egitto. Morto Davide, egli se ne tornò nell'Idumea, dove si stette fino agli ultimi anni del regno di Salomone, allorché vedendo che questo principe era divenuto odioso a suoi sudditi per gli eccessivi tributi, e avea scapitato moltissimo dalla primiera reputazione per ragione dei suoi disordini, allora Adad cominciò a darsi movimento per acquistare il regno dell'Idumea. E quantunque non si vega che riuscisse nei suoi disegni, con tutto ciò dovette dare molta inquietudine a Salomone. 11,15 Essendo andato Joab a dar sepoltura a quelli, eci a seppellire Gl israeliti morti nella battaglia, in cui furono sconfitti Gl idumei. Vedi 2. Regione 8. 13:14 Vuoi chi crede che questi israeliti uccisi fossero i soldati lasciati da Davide nei prosidii dell'Idumea, i quali o con la forza, o a tradimento fossero stati trucidati da Golidumei, e onde Davide ebbe motivo di ordinare che fossero messi in morte tutti i maschi di quel paese. 11,23 Razzon, il quale aveva abbandonato ad Arezer, e ci bella vittoria riportata da Davide sopra Darezer re della Siria, si parla, 2. Regione 8. 3. Razzon capitano di Adarezer fuggì con la gente, di cui avea il comando, e si diede a fare delle scorrerie or in una parte, or in un'altra, rubando e predando dovunque poteva, e finalmente negli ultimi tempi di Salomone arrivò a farsi signore di Damasco e a mettere in grandi apprensioni lo stesso Salomone. 11,25, per tutto il tempo di Salomone. Per tutto il tempo che Salomone continuò a vivere e a regnare dopo che per i suoi peccati si meritò l'ira del Signore. E questo oltre il flagello di Adad, e l'odio di lui contro Israele, e ci il Caldeo lesse in tal guisa, egli fu nemico di Israele per tutto il tempo di Salomone, e oltre il male che fece Adad, egli si ribellò contro Israele, e regnò nella Siria. Non abbiamo motivo di dubitare se quelle parole e gli regali nella Siria si rileriscono a Razzon, mentre ciò apparisce chiaramente dal versetto 24. Razzon re della Siria di Damasco fu nemico di Israele nello stesso tempo che Adad re dell'Idumea, sfogando l'odio che nutriva contro il figliuolo di Davide, faceva tutto il male che poteva allo stesso Israele. 11,27. Perché Salomone edificò meglio e ci volsi, che per tal lavoro Salomone imponesse nuovo tributo, e che quindi Geroboamo prendesse occasione di versarsi in querele e invettive contro del re, gettando così tra quelli della tribù di Efraim i primi semi dell'avversione, per cui si separarono di poi dalla casa di Davide. 11,30. Lo spezzò in 12 parti. Azione profetica, di cui molte altre simili si leggono nelle scritture. Fedi Jeremix VI 2.3, Isai. X, 2, 8. 12, 3. Atti 21 secondo e C. 11,39, ma non per sempre. Dio sosterrà e conserverà la famiglia di Davide, ravviverà Eziandio il suo splendore non solo per amore di Davide, ma ancora, e molto più per ragione del Cristo, che di lui dee nascere secondo la carne, e il quale sarà la gloria di quella casa, e di tutto Israele. 11,40. Salomone adunque tentò, e ci si può credere, che Geroboamo con poca prudenza andasse confidando a molti le promesse fattegli in segreto a nome di Dio da Ia. 11,41. Nel libro dei giorni. Ovvero nel giornale, nel diario. L'uso di scrivere le azioni dei re era anche tra i persiani, Ester 6, 1, e tra babilonesi, ESDE. 6, 2.3.